andiamo avanti. Luca, tu sei? Chi è che mi chiama che non ho conosciuto? E avevo il volume bassissimo. E beh, sono da balla, sei diventato. Luca! Oh, Luca! Luca! Luca! Sei ancora vivo! Buonasera. Buonasera. E allora, Giulio, come va? Ciao, Carlo. Bella, sto guardando il ciclismo alla televisione. Adesso c'è il ciclismo femminile in questo momento. E io mi ero fatto un giretto, visto che è una bella giornata, ma non c'è nessuno in giro. E quindi adesso sono rientrato, ho detto proviamo a accendere se trovo qualcuno a fare quattro chiacchiere. Io non ho sentito nessuno, solo stamattina ho sentito Marco per una decina di minuti, ma niente di più. Però ancora prima che accendessi io stamattina dice che c'era Gianni nel Natalino anche. Non so quanto sono rimasti, comunque io non li ho sentiti. Marco questo me l'ha riferito. Ho capito. E oggi domenica calcistica un po' smunta oggi, le partite di cartello sono domani, per cui mi sono visto l'altro giorno Cagliari-Juventus, che la Juventus ha fatto pietà e alla fine ha rischiato anche di vincere nonostante tutto, però ci stava pure che il Cagliari facesse il risultato, visto che aveva vinto con l'Atalanta, ha pareggiato con l'Inter e non mi sarebbe dispiaciuto da juventino anche se avesse battuto la Juventus, capito? Così almeno aveva qualche punto salvezza in più, capito? Qualche margine in più. Quindi oggi così una giornata, sono di riposo oggi e domani, niente. Ho detto accendo e vediamo se trovo qualcuno. A te Giulio. Ok Carlo, sì. Beh, in effetti anch'io sarei stato più contento se quei due punti che ha preso il Cagliari, perché per me li ha presi il Cagliari, non li ha guadagnati la Juve. Il pareggio l'ha preso il Cagliari, la vittoria. Peccato veramente, guarda, sono veramente dispiaciuto per il Cagliari, nonostante che io sono sempre stato juventino. Però a questo punto secondo me sarebbe serviti più punti al Cagliari e più di quanto ne servono alla Juve, anche perché la Juve bene o male potrebbe anche riuscire ad entrare in Champions, che poi se non entra non me ne frega niente, perché intanto ormai la Juve mi ha fatto raffreddare completamente da essere suo stimatore, perché io non capisco più nemmeno la società della Juve, non la squadra, no, a parte l'allenatore e i giocatori, ma la società tutta, per carità, sono una vergogna, guarda, veramente una vergogna. Idem, anche io la penso così, società completamente sciolta, l'allenatore lasciato così allo stato brado, non sa neanche lui cosa più fare, non lo seguono più i giocatori, lui il suo gioco ormai mi sembra un pochettino sorpassato, non ha altre idee, con quei giocatori che ha non può fare nient'altro, mi sembra, però come hai detto tu la società proprio latitante, capito, non sta aiutando per niente. Io capisco che siano tempi di magra per il calcio italiano, un po' tutte le società sono in affanno, ma una società come la Juventus che insomma ne aveva sempre dai nel cassetto e quindi anche ci sta che uno si raffreddi un pochettino calcisticamente ad affare tipo alla Juventus di questi tempi, per me è la stessa cosa, quindi peccato per il Cagliari, capito? Forse i tre punti per il Cagliari sarebbero serviti per mandare via anche Allegri anche prima, capito? Una sconfitta della Juve a Cagliari, magari chissà che magari non l'avesse smosso anche un pochettino a lui. A te Giulio. Ok Carlo, no, sì, anche io ripeto, sarei stato più contento se avesse vinto il Cagliari, però anche se avesse vinto il Cagliari non sarebbe servito a niente per mandare via Allegri, perché proprio poco fa stavo leggendo un appunto sul computer che è stato confermato anche per il prossimo anno. Io non riesco a capire come mai questa squadra, ragazzi, da continua a tenersi un allenatore che non è in grado di mantenere una squadra e di avere un gioco di calcio come si deve, che sono veramente schifosi, una vergogna, guarda. Tu pensa che nelle ultime 12 partite ha vinto solamente 2 volte, vergognoso veramente, per una squadra blasonata come la Juventus. Ma come si fa a poter seguire ancora e non raffreddarsi? Perché se continua così ne perde tanti di tifosi la Juve, ma tanti veramente, perché non è possibile che uno possa essere arrabbiato solo perché trovi degli elementi che fanno schifo, sono dei mercenari nello senso della parola, i giocatori più pagati della Serie A, i giocatori più costosi della Serie A, l'allenatore più pagato della Serie A, la società più ricca della Serie A, e si trovano in queste condizioni, vergognoso veramente, guarda. Vabbè, quest'anno è così, poi vediamo il prossimo anno, ma io penso che se ne vada lui, anche se per adesso è confermato perché ha un altro anno di contratto e quindi vogliono risparmiare, non si sbilanciano. Comunque io penso che poi alla fine sarà lui ad andarsene, se gli offrono qualcosa anche nei paesi arabi eccetera, perché non è possibile che un altro anno si vada avanti così, capito? Tanto non vogliono spendere, vogliono rifare la Juventus ma senza spendere molto. Se tocchi Chiesa, Vlahovic, Bremer e qualcun altro, proprio, allora è proprio sciolta la Juventus, non ci rimane più niente, capito? Ma vediamo un po' cosa ne esce fuori per il prossimo campionato. Adesso mi sa che la prossima settimana c'è il ritorno con la Lazio di Coppa Italia, anche quello c'è in ballo ancora, e vediamo come va. Sì, speriamo che riesca a battere la Lazio, ma ho la sensazione che la Lazio si stia riprendendo bene con Tudor, allenatore, che poi tra l'altro Tudor conosce bene la Juve, per cui non sarà molto facile per la Juve riuscire ad affrontare la Lazio. Ma in quanto a Vlahovic, Chiesa e tutti gli altri, guarda, io cosa vuoi che ti dica? Io dal primo momento ho detto, Vlahovic ha comprato la Juve, e Allegri lo rovinerà, come ha rovinato Dybala, come ha rovinato tanti altri giocatori. Ma se non è riuscito, ragazzi, ad ammaestrarlo, a metterlo sul piedistallo, Ronaldo, figurati un po' se ci riuscirà Vlahovic, che non riesce a fare un gol nemmeno con le mani, se gli lasci la porta senza il portiere. Ma è una vergogna, ragazzi, da 80 milioni quasi ha speso per questo giocatore, ed è una vergogna veramente, uno che non sa fare uno stop, uno che non sa giocare proprio, tecnicamente è un asino nel vero senso della parola. Poi non parliamo di Chiesa, ragazzi, sembrava che si volesse mangiare il mondo. Sì, ha avuto un grosso incidente, però è passato già un anno e mezzo da questo incidente, e diciamo che anche qualche partita buona quest'anno l'ha anche fatta, perlomeno all'inizio, poi anche lui si è lasciato andare, anche lui è in condizioni vergognose di forma. Io non so da che cosa dipende, dipende dai direttori, dal direttore atletico o dall'allenatore addirittura, cioè Allegri, ma per carità, sono veramente una vergogna, ripeto, gli uomini che non hanno un minimo di dignità, non hanno, anche se l'allenatore non riesce a farti giocare come vuoi tu, perché non fai giochi veramente da solo e lo lasci perdere a questa bestia che non è in grado di mantenere la squadra? Esatto. passato, io ho visto che la Roma ha mandato via Mourinho, ha messo De Rossi, sarà una coincidenza, ma non mi sembra, no, perché ormai ne ha vinto già 3 o 4, anche De Rossi, la squadra sta giocando molto meglio, ormai è a ridosso del Bologna, capito, e andrà a finire al 4º posto la Roma, se non supera anche la Juventus, perché ancora ci sono 5 partite, quindi 3 per 5 è 15, ci sono 15 punti e quindi non si sa. La fortuna della Juventus è che quest'anno in Champions ne entrano 5, non 4, capito? In base al rating della UEFA hanno detto che le squadre italiane comunque si sono classificate bene nelle competizioni europee, eccetera, e quindi avremo 5 squadre in Champions. Quindi la Juventus sarà un po', anche che hanno saputo queste notizie, Allegri non lo seguono più. Io ho visto che anche la Lazio ha cambiato allenatore, c'è Tudor e sta facendo sempre risultati, quindi uno scossone ci vuole, capito? Quindi un cambio d'allenatore male non avrebbe fatto, però la società, diciamo, non è più quella di una volta della Juventus, capito? Non hanno più il coraggio, forse non hanno voglia di spendere soldi, non lo so, con tutte le vicissitudini che ha avuto, in effetti un sacco di tracolli finanziari, spese legali, eccetera, quindi hanno ridimensionato un po' tutto, magari ci vorrà qualche tempo perché si riprenda a livello economico anche la società e magari possano investire di più. Gli è mancato anche l'introito dalle competizioni europee quest'anno alla Juventus, quindi anche la campagna acquisti è stata fortemente ridimensionata, sono tutti giocatori che c'hanno groppone già da un paio d'anni, quest'anno forse riescono a sbolognare Alexandro, gente che ormai se quello che doveva dare alla Juve l'ha già dato da tempo, anche questo Alcarez, come si chiama, quello che hanno preso in prestito, non lo riconfermano, pare che lo restituiscano, per cui ci sarà da aspettare, da vedere. Dai Giulio, cosa ti volevo dire? Sì, qualche giorno fa l'ho sentito anche coso natalino, abbiamo fatto una breve chiacchierata, insomma mi ha detto che non stava molto bene, però ogni tanto così qualcun altro già lo sento. L'altro giorno c'era Antonello Pomponio e poi non l'ho più sentito, infatti ho provato anche a contattarlo al telefono ma non sono riuscito a trovarlo, e niente, quindi perché gli avevo promesso delle cose, già si farà sentire, dai, a te il microfono. Ok, sì, così mi aveva riferito stamattina Marco che Natalino non stava entrando perché non stava molto bene, io sono da un po' di tempo che non lo sento più, tutte le volte che accendo non c'è mai nessuno, per cui raramente riesco ad arrivare all'appuntamento così contemporaneo con altre persone che possono parlare da baracchino. Assolutamente, adesso ero più di un'ora con il baracchino acceso e con la televisione accesa che stavo appunto guardando la fase finale della Liegi, Baston Liegi, che ha vinto tra l'altro il più forte in assoluto con Pogacar, e quello lì è un mostro, un fuori classe della bicicletta, veramente troppo forte. Io penso che quest'anno ne vincerà parecchi, anzi l'intenzione è quella di fare la copiata Giro d'Italia e Giro di Francia, ma staremo a vedere se ci riesce, quello non è che sia molto facile. L'anno scorso non ci è riuscito, vabbè, l'anno scorso ha vinto il Giro ma non il Giro di Francia, perciò non è facile vincere tutti e due i giri così nello stesso anno. Va bene, comunque, cosa vuoi che ti dica? Io, tornando al fatto della Juve, guarda, non so più nemmeno che cosa dirti, se guardare partite, se non guardare. Quando ci sono le partite, allora guardo magari, anzi alle volte non guardo nemmeno la televisione, accendo la radio, 5 minuti, ascolto se il risultato oppure la spengo, perché intanto mi dà fastidio, insomma, mi dà fastidio sentire. Io non è che sono un accanitissimo della Juve, io sono solo un simpatizzante, ma da sempre però, da quando sono nato. Per cui mi dà fastidio sentire le condizioni in cui gioca la Juve, perché è vergognoso, guarda, veramente. Comunque, saremo a vedere, speriamo che cambi la situazione, chi lo sa, boh, ti prendi. Eh sì, infatti. Aspettiamo tempi migliori, dai, ormai è tutto compromesso per quest'anno. Vediamo l'ultima spicciolata di gioco. Tornando al ciclismo, adesso a maggio mi sa che c'è il Giro d'Italia, poi se non sbaglio a giugno ci sono le Olimpiadi anche a Parigi, quindi eventi sportivi già dovrebbero essercene parecchi, almeno sino a giugno, sì. Poi tutti al mare a mostrare le chiacchiare, capito? E poi si riprende a fine agosto con campionati e altri sport. Sì, beh certo, adesso inizia proprio la stagione di tutti gli altri sport, certo, soprattutto il ciclismo. Sì, mi sembra che inizia stagione 5 del Giro d'Italia, se ricordo bene, adesso non voglio sbagliarmi, ma mi sa che la data era quella, l'inizio del giro, il giorno 5. Sì, è vero. Tornando al discorso di Allegri, scusa che io continuo a parlare sempre della Juve, ma perché mi dà tremendamente fastidio, vorrei capire come hanno fatto a promuovere la Juve a fare i mondiali quest'anno. Ma non è possibile, mondiale di società, no? Ma dico io, e tu non fai una squadra come si deve, cioè per presentarsi in condizioni come si deve. Ma io sono convinto che farà una figuraccia, proprio nello senso della parola. E poi magari chiudiamo anche col discorso Juve, va. Anche io penso proprio di sì, perché se ci va con questa determinazione, con l'allenatore e i giocatori che sono proprio col muso basso, non credo che faccia una bella figura, capito? Comunque, vediamo un po' cosa ne viene fuori anche di questa storia. No, cerchiamo di non avvilirci troppo, poi prima o poi Allegri lo manderanno via, faranno una nuova squadra e speriamo bene, dai Giulio. Sì, beh certo così, capisco che ha vinto tanto, 9 titoli italiani di seguito, però ne ha vinto almeno, non dico molto, ma almeno 3, minimo 3, facendo un gioco pessimo comunque. Li ha vinti perché c'erano i campioni, non tutti potevano avere giocatori come Pirlo come tanti altri che c'erano, e anche come lo stesso Ronaldo. Pazienza, vabbè, comunque, a parte quello, cosa mi racconti della frequenza? Cosa ne pensi, visto e considerato che la gente è proprio non c'è più praticamente, forse è in ascolto, vedi la portante e poi nessuno ti dice di entrare e non entrano, non ti rispondono nemmeno. Ma anche io tante volte entro e proprio non trovo nessuno, da un bel po' di, forse anche qualche, almeno 6-7 mesi proprio, io avevo avuto insomma diversi problemi eccetera, poco tempo da dedicare, non stavo più entrando per diversi mesi, proprio a zero. Poi quando qualche volta accendevo non trovavo nessuno, e quindi un sacco di volte accendevo, colpi di portante, chiamavo, attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto, mai nessuno che ti risponda, e quindi o giravo canali, me ne andavo sul canale internazionale a sentire qualche chiamata, qualche volta ho fatto qualche DX, capito? Però poca roba, quindi a parte insomma se giri e trovi qualcuno sul canale 10 qua non è rimasta poca gente, limitata a certe fasce orarie solamente, capito? La mattina per esempio qualche volta io ho parlato con te qualche mattina e basta, poi non natalino qualche volta, di pomeriggio niente, dopo pranzo niente, io accendo spesso, è difficile che trovi qualcuno, capito? E un po' si è spenta, capito, la frequenza, Giulio. Sì, ormai è spenta, proprio è finita già da un bel po' di tempo, forse addirittura da qualche annetto anche, perché visto e considerato che in questi ultimi 2-3 anni la gente proprio si è allontanata continuamente, tutte le volte che ci siamo sentiti siamo stati sempre pochissimi sul canale, 1, 2, 3, 4, massimo 5 persone, non di più. a giorni alterni, magari oggi e dopo magari ci ritroviamo dopo 15 giorni e così via, e anche con più tempo. Perciò adesso è così. C'è quello che non vuole entrare perché dice, ma chi me la fa fare a me? Dice, a entrare, io parlo e gli altri ascoltano, loro non entrano. Ecco, questa è una dichiarazione che mi ha fatto un amico. Lui non entra, vabbè, ma se tutti quanti la pensassimo in quel modo, allora nessuno parlerebbe proprio. Cos'è? Cosa facciamo? E tira molla così, non è possibile. O si parla o non si parla, è inutile stare lì a protestare solo perché tu se parli tu gli altri ascoltano e gli dai la soddisfazione di ascoltare. Ma ne ho fatto, magari tu gli vuoi anche entrare, invece no, in questo modo non entra nemmeno lui, pazienza, ascolta dove ti pare, ti piace, non me ne frega niente anche a me. A questo punto io non è che ho molto da aspettarmi, ci sono 52 anni per questo, figurati, ne ho avuto modo di parlare e di spendere e consumare fiato in tutti questi anni, per cui non me la prendo proprio, guarda. Sì, è proprio così, io niente, quando è possibile accendo, ma se vedo che c'è qualcuno entro per fare quattro chiacchiere, magari poi non mi trattengo più di tanto perché hai mille cose da fare, però almeno un saluto, insomma uno scambio veloce di qualche notizia tecnica o un commento di qualsiasi cosa, quando è possibile lo faccio, per carità. È che queste cose stanno venendo sempre di meno. Qualche settimana fa stavo parlando con un mio collega che lavora con me all'aeroporto, lui è radioamatore, si chiama Alessandro, no? E mi stava dicendo che ha trovato in garage una vecchia Mantova 1, però in ottimo stato, ho capito che l'aveva messa, perché anche lui ha iniziato con la 27, e mi stava dicendo che anche tra i radioamatori non è che c'è tutto questo traffico, capito? Perlomeno a livello locale non c'è niente, a meno che non senti le comunicazioni da fuori, loro con i ripetitori vanno oltre, infatti lui mi ha detto che parla spesso col nord Italia, eccetera, però dice qua a livello locale no, e mi diceva che ha intenzione di reinstallarla la Mantova e si mette un apparecchio per la banda cittadina e ha detto che cerca di coinvolgere altre 3-4 persone di Alghero che gli stavano dicendo dai, io facciamo un po' di frequenza in banda cittadina e vediamo di risvegliare se c'è qualcuno interessato, magari che tira fuori le radio. E io infatti gli ho detto che stiamo sempre sul 10 in AM a Sassari, ho detto non spesso, ma ogni tanto ci troviamo lì a fare quattro chiacchiere. E più di questo non ti so dire, Giulio, qua si è un po' tutto spento a Sassari, siamo rimasti pochi in effetti e siamo tutti grandicelli e quindi magari rimane poco tempo e poca voglia. Io finché tengo tutto qua ogni tanto entrerò, poi altro per gli altri io non ci posso far niente, mi dispiace che siamo sempre meno, ma spero di trovare sempre qualcuno a fare quattro chiacchiere. Sì, appunto, adesso vediamo, tra un mesetto si aprirà sicuramente la propagazione in maniera decente, perché la propagazione diciamo che tutto sommato c'era tutto l'anno, già da un paio d'anni c'è tutto l'anno, però a giugno alpieni chiaramente, però è una propagazione pessima perché non si capisce proprio niente di quello che dicono, arrivano troppo bassi con una evanescenza notevolissima, per cui non è buona, insomma, ecco. Però adesso in estate si dovrebbe aprire e allora qualche collegamento lo possiamo fare anche con quelli della penisola e non possiamo certamente dire che possiamo essere contenti, perché sappiamo, registrato il break. Qui in Sardegna so che non c'è più quasi nessuno, tutti si sono allontanati, la gente non ha più voglia, non lo so il motivo per cui, oppure sarà stata pure la tecnica moderna di oggi, cioè il telefonino, il computer, eccetera, che ha fatto sì che si accantonasse il baracchino e si usasse magari più il telefonino, soprattutto con questo fatto di WhatsApp, eccetera. Poi c'è questo accidente del telefono del Midland, quello Cibitonco, anche quello non mi piace, infatti l'ho anche cancellato, non mi interessava, anche perché parlo con quelli della penisola, del continente, grazie, che sembrano le padrone del canale, per carità. Cosa dovevi dire? Qualche volta quando ce l'avevo, adesso l'ho tolto, parlavo magari con la Argentina, parlavo con questi posti così, con gli spagnoli, eccetera, e rispondevano, appena chiaro che non c'era nessuno, rispondevano tranquillamente, solo che si controllo, come la lingua, tu parli, lui magari non capisce quello che dico io. Capisco quello che dicono loro, hanno fuori qualche parola, e allora cosa si fa? Si chiude e non se ne parla più, e così ho terminato, non mi interessa più nemmeno quello. Aspetta, c'è stato un break, avanti, sì, avanti, sì, Uranio, già ti ho copiato, forse Giulio non riesce a sentirti, capito? Io ti sento, ma la radio è bassina come l'altra volta, immagino che tu sia sempre con la boomerang e con diciamo i watt tradizionali, dai, però l'altra volta poi avevi migliorato. Sì, salutoni anche da parte di Giulio, adesso te lo rilancio così vediamo se riesce a sentirti. No, ciao Francesco, se mi stai ascoltando, ma io non ti sento proprio niente, zero assoluto, niente di proprio, non niente, né segnale né niente, proprio niente di niente. Anche tu sei in condizioni precarie adesso al momento, per cui non stai modulando come prima, dai, prima ti sentivo discretamente, nonostante che sei lì in quel paese, e arrivavi bene ugualmente, ma adesso niente da fare, non ti sento proprio. Riprendi pure, poi casomai farà da ponte Carlo, vediamo un po' se si può andare avanti così. Vai Francesco, se mi hai ascoltato, capo. Francesco, l'hai copiato Giulio? Sì, Francesco. Niente, Giulio ti stava salutando e ti ha detto che insomma prima ti sentiva un pochettino meglio, e Giulio è lo stesso. Francesco non riesce a sentirti, ha detto che prima ti sentiva con un segnale di 2-3 in passato e adesso niente proprio, non riesce a copiarti. Sicuramente dipende dalla situazione precaria, un po' dell'antenna. Tutto qui, a te Giulio, se vuoi salutarlo te lo risaluto Francesco. Ok, dai, adesso probabilmente riesci a sentirmi anche, magari in basso, perché se non ha antenna, se non ha ricezione, non è possibile, perché se non lo sento assolutamente, anche lui avrà difficoltà ad ascoltarmi, purtroppo se non c'è antenna come si deve, sarà molto ma molto difficile. Comunque Francesco, se mi stai ascoltando adesso io ti saluto, però ripeto, non ti sento nella maniera più assoluta. Vai, riprendi e vediamo un po' se mi hai ascoltato questa volta. Carlo parla da Ponte. Ehi, Francesco, aspetta che rispondo a Giulio, l'ultimo passaggio ti ha sentito Francesco e a Osilo, però arrivavi Radio 1 e riuscito a tirarti fuori, come magari è aumentato appena appena, però dice che altre volte ti aveva sentito meglio, ma dipenderà anche dalle sue condizioni. Lui ha detto che ha messo una radio provvisoria in cucina e quindi anche può essere quello. Va bene Giulio. Sì Francesco, io già ti sento qua di segnale, mi arrivi bene, però la radio è un po' bassina, la radio è una radio 3, capito? Ti tiro fuori e il segnale è un Santiago 6-7, capito? Però già ti tiro fuori bene, diciamo che siamo anche vicini, anche io sono in una zona alta di Sassari, per cui non ho difficoltà a tirarti fuori. Bene Mela, a te Francesco, dai. Va bene Francesco, te lo saluto io perché Giulio non ti sente, dai. Giulio, ci sei ancora, sì? Sì, ci sono, Carlo, certo, sì, non lo sento, poi ho anche abbastanza di nuovo, sicuramente non mi sente nemmeno lui in questo momento. Non so cosa dirti io, Carlo, ecco, la gente è in questa situazione, vedi, ma tutto questo sai perché succede? Per il fatto che non c'è molta gente per questa, dunque c'è un menefreghismo anche da parte di chi ha ancora voglia di accendere e magari si ritrova trova in condizioni come in questo momento Francesco, proprio in condizioni pessime. Già usciva sempre non molto bene, e per cui adesso è ancora peggio con l'antennino, poi che ha messo la radio in cucina, questo non significa proprio niente, significa solamente che devo l'antenna e basta. È inutile che mi metto l'antennino lì, usilo, perché non serve a niente, guarda, non serve proprio a niente. Tu lo senti perché tieni l'altura, solo fatto che tu lo senti, Santiago 6-7, e lì lo dovresti sentire 9-20 come minimo quando lui ha l'antenna, ma purtroppo le condizioni sue sono precarie, perciò non riesci nemmeno tu ad ascoltarlo come si deve. Pazienza, dai Carlo, riprendi. Sì, esatto, sì. Poi il segnale, la radio è molto bassa di Francesco, e altre volte lo sentivo, come hai detto tu, da Osilo, Santiago 9 più 20, radio Super 5, perché insomma lì sei proprio sul cucuzzolo della montagna, insomma, se hai un'antenna piazzata bene già si sente benissimo, anche con soli 5 watt, per carità. Sì, poi infatti l'ultimo passaggio Francesco si è alzato parecchio il QRM, e ho fatto anche io fatica un po' a sentire, ho capito tutto quello che hai detto, però capito, evidentemente non è molto prestante quell'antenna che hai messo lì. Vabbè, dai, speriamo che tu abbia la voglia di sistemarla meglio, magari un'altra antenna, e così magari ci possiamo sentire più chiaramente. Bene, Meda, rilancio Giulio, dai. Ok Carlo, sì, ma è così. In effetti questo radioamatore che mi stava dicendo ha intenzione di piazzarsi l'antenna anche lui e di cercare di rientrare in questa frequenza qua, ma quello ci fa piacere se lui riesce a fare quello che ha detto. Se poi non entra, pazienza, non ci possiamo fare niente. Mi dispiace, vedi, purtroppo che non c'è più Claudio in frequenza, la verità, mi dispiace. Però cosa vuoi, anche lui si è allontanato già da molto, almeno un anno, se non anche di più, che non parla più in questa frequenza. E tutto sommato ha ragione, fa bene, perché intanto è inutile stare lì a perdere tempo. Lui ha altri modi dove parlare, altre frequenze, e beh, fa bene che si è dirottato da quell'altra parte, anziché stare qua. Intanto qua non ne valeva proprio più la pena. Sì, sì, esatto, e qua il traffico è molto ridotto ultimamente, così. Vabbè, dai, speriamo insomma che entri qualcun altro pian piano con la primavera, l'estate, quando inizia un pochettino una propagazione migliore. Sì, come hai detto tu prima, la propagazione c'è ogni tanto, però sono tutti segnali molto confusi, segnali bassi, si sentono a volte Santiago 9, ma dura poco, capito, e poi non li senti più, quindi non ne vale la pena neanche, cioè, tentare un collegamento, capito, a meno che non te ne vai in banda laterale, che magari c'hai qualche watt in più e lì riesci. Io spesso parlo con le Canarie, Spagna, insomma quelle zone lì. Da poco ho parlato con Svezia, Norvegia, tutta la zona del nord Europa, capito, con segnali ottimi, e collegamenti che sono durati anche 5-10 minuti, sempre, capito, con un po' di aiuto di propagazione, qualche watt in più. Ogni tanto riesco a fare qualche collegamento, però poi niente, qua la frequenza è sempre più piatta, però pazienza, dai, ogni tanto una busattina io la farò sempre. Allora, visto che si sono fatte le 6:20, mi devo spostare, e niente, ne colgo l'occasione, così saluto Francesco, se ancora in ascolto, Uranio da Osilo, ti saluto anche Giulio, comunque, speriamo di sentirci in condizioni molto migliori. A te il mic, Giulio. Ok, d'accordo Carlo, d'accordo, dai, ci sentiamo. Sì, diciamo che qualche volta ascolto la notte quando c'è Tino Gavino e Franco di sorso, magari fanno queste o loro tra di loro, così la notte, ma a me la notte non mi interessa, perché la notte c'è la televisione accesa e per cui non posso disturbare QRA, perché o parlo io oppure si guarda la televisione. Siccome non sono da solo in famiglia, che ci sono i miei familiari, è giusto che io non parli, e allora la televisione si può guardare, si può vedere. Il discorso è anche quello, no? Che poi tra l'altro, se non fanno discorsi importanti, a me questo fatto di stare solo a fare controlli e controllini non mi va, non è il caso, guarda, non è, quello per me non è fare radio, è solo così curiosità personale e basta, no, non mi interessa più di tanto, nonostante che mi piacciono come amici, sono tutti e tre uno meglio dell'altro e sono degli amiconi veramente, però se dovessero fare magari un discorso durante il giorno, io sono ben felice di farlo, come è già successo, è capitato che sono entrato quando loro hanno fatto dei discorsi interessanti, ma da me il fatto di stare sì a controlli eccetera eccetera non mi interessa più di tanto. Oh Carlo, figurati, con tutto il rispetto per gli amici, chiaramente. Sì, già ogni tanto qualche collegamento loro già l'ho sentito, sì, io lo stesso, non è che mi dilungo tanto con controlli e cose varie, a meno che non ho un problema e cerco di risolverlo con l'aiuto di qualcuno, però poi una volta che l'ho risolto, basta, io limito solo le quattro chiacchiere e basta. Sì, e in questi giorni che mi sto mettendo anche a posto un pochettino il garage, Giulio, e lo voglio un po' liberare di spazio, infatti ho un vecchio mobiletto bar eccetera, ho provato a chiedere a Cosa Portobello se posso portare le cose lì a mettermele in vendita, ma praticamente ti chiedono il 50% e il prezzo lo decidono loro, capito? Quindi alla fine ti toccano due citi, allora per così ho detto no, non glielo porto, preferisco regalare le cose a qualcuno che magari mi ha fatto qualche cortesia, se le vuole, diversamente ci butto via tutto, delle stampe antiche che risalgono agli inizi del Novecento, tutta roba che era a casa di mio nonno eccetera, sono delle stampe vecchie, capito, con cornici originali di quel periodo lì, non niente di valoroso, però insomma sono un pochettino antiquate. Ho trovato un negozietto che lo stesso è tipo Portobello, però un pochettino più raffinato, più organizzato, anche loro vogliono il 50% del totale della vendita, capito, però perlomeno ti dicono il prezzo lo fai tu e tu ci dici lo vuoi vendere 100 euro, bene, 50 a te, 50 a me, ti teniamo le tue cose per 6 mesi, dopo 6 mesi quello che hai venduto ti prendi, quello che non hai venduto te lo ritiri e te lo porti via, sono più onesti. Invece là erano un po' alla trullallera, e quindi c'ho il garage che è tutto sotto sopra, domani che è un giorno libero mi carico qualcosa e provo a portarlo in quel negozio, e così mi faccio anche un pochettino di spazio giù, magari riesco a piazzarmi anche lì una radio, se porto giù il capo anche dal garage magari riesco a collegarmi così, perché i lavori stanno per finire, ancora siamo senza ascensore, tutto qui, di cose da fare ne ho tante, dai. Comunque, siccome appunto mi sono ricordato delle cose da mettere a posto e niente, adesso me ne scendo giù un'oretta e metto a posto, così mi preparo le cose per domani mattina, e nel caso ci sentiamo intorno alle 10 domani, rientro a quell'ora a casa, esco un po' presto e niente, verso le 10, tanto mi faccio il caffè a quell'ora, 10:30 accendo e vediamo se c'è qualcuno. Bene Meda, mi ha fatto piacere fare quattro chiacchiere, risaluto Francesco se ancora in ascolto, Giulio a te il microfono, ascolto il tuo finale e poi chiudo, e nel caso ci sentiamo o domani o più tardi se coincide. Ok Carlo, sì, anche a me ha fatto piacere di ascoltarti e ti saluto di cuore veramente, guarda, no, non c'è problema, tu lo sai. Sì, no, io quando ho avuto modo di liberarmi di qualche mugre, qualche cosa, no, ho preferito portarlo all'ecocentro e buttarlo direttamente, intanto andavo lì da Portobello. devo dirti, ho un televisore che è funzionante, però non è proprio una bella immagine che ha, che magari è riparabilissimo, che l'ho cambiato qua, ed è un televisore funzionante, che si vedono tutti i canali abbastanza, non è che non si vedono, e io preferisco portarlo all'Ecocentro e me ne libero, anzi aspetto sino a giovedì, tanto giovedì c'è qua la macchina che ritira le cose ingombranti, e per cui non devo fare molta strada, faccio 500-600 metri, glielo porto, perché fanno piazza qua, fanno in questa zona, e glielo consegno, non se ne parla più, tanto tu vai a darlo a qualcuno, poi si lamentano, mi ha dato una cosa che non funziona, ma sai come succede, per cui è meglio tenere liberi direttamente, lo vai allo stoccaggio e basta, okay. Vabbè, detto questo ti saluto e ti ringrazio per questo. Ciao Carlo, salutoni ancora e alle prossime, dai, a risentirci presto, ciao ciao. Ciao Giulio, ci sentiamo, ciao, buona serata. Ciao Luca, però non entri, meglio mai te, meglio cosa vuoi ti dici? Ah, buon Giulio, no niente, mi sono qui, sto facendo delle cose, delle misurazioni, delle cose di questo microfono, con questa radio, e niente, già mi stavo ascoltando giù. Lo so che stai ascoltando, quello già lo so, per cui, bravo, d'accordo, dai, continua pure, cosa mi dici? Io mi guardo, continuo a guardarmi il ciclismo alla televisione, c'è una gara interessante, per cui, anche se è già finita, ma adesso stanno ripetendo le ultime fasi della gara, dunque me ne sto guardando di nuovo da capo, perché è uno sport che mi piace molto. Ma che sport? Ciclismo. Ah, ok, fai pure Giulia. Parole di morti. Buonasera. Su che abbiamo? Buonasera. Buonasera anche al signor Manuele. Buonasera, buonasera, buona domenica a tutti. Ciao Gianni, ciao Marcolino. A te Gianni. Un attimo. Aspetta che sta ciupando Gianni. È sempre a ciupendimi. Eccomi qua, dai. Buonasera a tutti, cordialità 7351, ho tutta la ruota, avanti. Dio, Manuele, l'ho rilanciato, è già sparito, boh. Io sono tornato da 10 minuti già, 10 minuti, con mamma ho detto, io andiamo a Platamona a prendere un bel gelato da Pusati. Abbiamo trovato parcheggio al primo giro, nel vialone, alla prima proprio. Andati, belli, c'era una bella arietta, né troppo caldo, né nemmeno l'aria fredda, a parte dove eravamo noi era all'aperto ma era riparato, era all'ombra col tavolino eccetera, e poi ci siamo guardati un po' il mare, siamo messi fronte mare, c'era un bel po' di gente, cani a furia dura, ce n'era uno del il colore del tuo cane, uguale come colore, il colore del cervo. Più che altro però cucciucci erano gli altri, donne, uomini, bambini, anziani, di tutto, validi, invalidi, un po' di tutto c'era, dai. Almeno mamma, capito, si sente meno giù, se esce, si deprime di meno. Insomma, un bel giretto, siamo stati 2 orette fuori, siamo tornati poco fa, parcheggiato sotto casa, proprio schifosamente, col sistema mio della moto. Ma ho parlato al muro, mi? Ho parlato al muro? No, ti stavo ascoltando Marco, stavo cambiando il radio, comunque ti ho ascoltato, hai fatto bene Marco. Dove si trovate a mangiare il gelato? Lì, vabbè, quel barchetto lì di cose, quello che c'è la rotonda. Ehi, a destra lì, il signor Celeste, da Ernesto, gelateria Ernesto, lui si chiama Celeste di nome. così, da. Comunque bello, era perfetto, guarda, né troppo venticello freddo, ma nemmeno troppo caldo. Così è fruibile, così è buono. Infatti non c'era gente in mare, no, oggi non era giornata da mare. Sì, vedi qualcuno, magari più che altro ragazzini, piccini, piccoli, così che si scialavano nella sabbia, beati loro. Avrei voluto anch'io affondare i piedi nella sabbia. Vabbè. È fatto bene, Marco. Il radio come se ne è mai? No, già, perché siamo andati alle 3, no, siamo partiti alle 3:10, 3:15 da Sassari, no? E ho detto, così presto non c'è nessuno, non penso non c'è nessuno, ho detto poi sono anziani, devono fare la pennichella, se no non ce la fanno poi. E invece guarda, io ho acceso e ho detto magari Marco scende a fare tavola così ci sentiamo. Invece ho detto ma deve essere cambiato idea, boh, perché lui è mandrone, se lo prende il letto, boh. Guarda, ero sul punto di metterlo, però ho detto, mamma mia, poi lo metto, non si ha mai nessuno, e invece volevo pensare già di lasciare nel cofano un baracchinetto, anche quello senza smitter, che funziona bene comunque, quello senza smitter, che così se lo rubano non me ne può fregare da meno, un'antenna da macchina, magari non lunga, però nemmeno quella Sirio che costa, tipo quella lunga però l'altra, quella che rende un pochino meno, e una base magnetica, metto la Sirio vecchia, che si sta mezza sfasciando, la lascio fissa nel cofano, quando voglio modula in un attimo, anzi ti dirò di più, avevo preso da Amazon tempo fa, e non l'ho mai usata, una grossa ventosa da 10 cm, che poi alla vite tu la fai passare nei fori della staffa e la puoi tenere praticamente sul cruscotto in modo che comunque la visuale è libera, perché per legge deve essere libera, il baracchino rimane proprio a filo cruscotto, non in basso, però rimane saldo al vetro, capita la parte finale del vetro, e la volevo provare così. Ho detto un'antenna andante, un baracchino andante da lasciare, e così quando voglio, come facevo una volta col Max Com 7, no, la valigetta, e tornavo dal mare, lo attaccavo e qualcuno trovavo all'epoca. E anche io ce l'avevo, quello ce l'avevo della Intec, e pochi anni fa che l'ho dato, dai, ce l'avevo fermo roba di 10 anni, l'ho acceso e funzionava bene lo stesso. Aveva anche un bel microfono, quei microfononi l'ho usato in un altro microfono, gli ho tolto la capsula e l'ho cambiata. Ega, vediamo se Emanuele è rientrato. Emanuele stava ascoltando le canzoni che ho fatto, ho finito adesso di cantare, uia. Quello serve ad acchiappare, serve, è buona, cosa buona e giusta. E vabbè, sì, ne conosco un bel ragazzo, ma non molto, non pochi, non molto. Poi anche la sera ci abbiamo un salotto dove ci troviamo tutti, come facevamo il baracchino, però dice ci sono le poltrone, ti siedi, parli, fai discussione, cose, puoi vedere anche, diciamo, le fotografie delle persone con cui parli, eccetera, eccetera. L'appoggio io. E io te la spingo, Antonè. Buonasera a tutti e due. Ciao, Antonè. Eia. Ah, così che c'hai il microfono col bip doppio. Aspetta che lo metto anch'io, così impari. Cazzo. L'M95 è... ZG. Antonè. Ehi, ciao, Carlo. Ti ho cercato i giorni scorsi, ma non c'eri. Stavo facendo lavoro per Giovanna, perché altro. Visto che mi hai chiamato, dimmi tutto, roba urgente. No, no, ti avevo promesso quelle bottiglie, e quindi quando ci sei te le passo. Ah, io sono qua stasera, qual è il problema? Non ti preoccupare, noi possiamo andare anche a invece una cosa. Tanto vado a andare a comprare un pezzo per un baracchino. Ma dopo 4 anni mi hanno passato un baracchino a riparare, cazzo. Non te lo dico nulla, un incubo, perché dell'impratica assemblare col cervello, hai capito, eccetera eccetera, le cose, quando sei 10 anni che non ripari più i baracchini è come se avessi mollato, ti posso dire, la palestra. Ehi, scusati, io sono entrata a gamba tesa, non so con chi stessi parlando e chi c'è, è perché ti ho sentito riattaccata adesso, prima un'oretta fa ero con qua in questa frequenza, non c'era nessuno, ho parlato un 20 minuti con Giulio e poi avevo da fare, quindi ho chiuso, adesso sono tornato, niente, ascolta, se ti va bene alle 7:10 sono sotto casa tua tra 20 minuti. Va bene, adesso sono qua, non c'è problema per quello. E tu a meno alle, diciamo, dai, a 7:15, dai, facciamo a 7:15, sono sotto casa tua che sto uscendo, a dopo, scendi e mi trovi, d'accordo, che non c'è problema per quello, sì, ci mancherebbe. K, ciao Carlo, ben sentito, c'era anche doppio room. Ciao Carlo, ben sentito, buonasera. Ciao Marco, ciao Gianni, sono di fretta, dai, un caro saluto a tutti e due, perché l'ho acceso per caso così, prima ero con Giulio a fare quattro chiacchiere, con Francesco di Osino, niente, vi saluto perché sto uscendo e devo andare a casa di Antonello a dargli una cosina, dai, nel caso ci sentiamo dopo. Ehi, dagli ad Antonello un bacio in bocca da parte mia. Dammelo tu Marco, che è più bello. Non mancherà occasione. Ok, ciao Carlo, dai, buon proseguimento. Mi, Villaggio Burui, un VIP doppio, però c'è anche il VIP del 3009, sono 3 mi. C'è la scheda, lo sai, delle... se vuoi attacco la 140 alla scheda, ma sarebbe, cioè, brutto in pratica, cioè brutto, vabbè, a me lo ripeto, non faccio altro che staccare il frontalino, ripiazzo la scheda dei 24 tori e sono 4+5=6 e faccio quello con i carabinieri. Sì, a questo proposito io ho sentito uno spagnolo che aveva lo stesso identico suono della selettiva, adesso non mi ricordo che selettiva fosse, se dei carabinieri o della polizia, ma era identica, quello è bello averlo uguale uguale uguale. Riprendi Gianni. Aspetta che sto mettendo la batteria nel micro. D'accordo, ok. No, io ho sentito l'altro giorno una persona che è venuta giù al circolo da Ricco, la verità. Avevo fatto la spesa, cioè la spesa, spesa per conto di dire, ho fatto metà spesa, poi avevo fatto un lavoro molto prima, lì in una palestra, e questo tipo, questo ragazzo qui aveva avuto una quarantina d'anni, no? Una cosa già 30, 35 anni, come Roger Bippi, come messaggio, come si chiama, Roger Bippi, tipo quello, come quello dei carabinieri, uguale, ce l'ha messo lui, ce l'ha messo, è arrivato bubu. E quello l'ha campionato da qualche registrazione, capisci a me? Potrei farlo anch'io. E vabbè. Io adesso sto usando lo stesso l'M95, certo non è un granché come amplificazione, non è un granché, però vedi, anziché stare attaccato sono diciamo, fai che sia 40 centimetri, vedo che i picchi ci sono, no? Non lo devo attaccare alla bocca, questo lo porto in macchina, me lo posso usare in macchina, così non mi vedono col microfono alla bocca, capito? Poi c'è anche l'altro migliore, i timbrica, però amplifica anche meglio. Quindi sì, vabbè, io sto usando adesso, me lo sto usando nel Kemo, la verità, nel 140. L'altro giorno c'era 140 mi sembra che era, poi c'era 53 con le invece 60. L'ho visto così per sbaglio, è arrivato là, se avevo avuto soldi l'avrei preso. E invece sta prendendo anche in culo a un certo punto. E che mi sono arrivato a 143 euro di luce, 120 di corso, di luce normale, e tutto il resto è tasse, come si dice, camera RAI, hai capito? Aspetta che sto rientrando in un canale dello scanner, ecco, eliminato. Hai detto 120 di luce, quant'è? No, a me l'ultimo, allora ti spiego, noi siamo passati da Enel vecchio, sarà Enel servizio elettrico, no, quello antico, a Enel Energia. La prima bolletta che è arrivata è 200 euro, poco più, 204, 214. E sai perché? Perché mamma ha usato molto la stufetta elettrica, tipo che la lasciava tutto il giorno, e se a volte anche la notte, io. Quella fa tutto luce e non scalda niente, te devi attaccare le gambe per scaldare. Va bene. Vediamo se Gianni è rientrato. Io sono. Sta uscendo basso di radio, già. Cosa, Antonio? Sta uscendo basso di radio, anche il bip addirittura. A proposito di batteria, io qua le batterie le avevo messe nuove della Energizer, però non le ho più misurate col tester, non so il livello di carica, però vedo che qua sale, i picchi salgono. Guarda, io adesso allungo tutto il braccio, vediamo, tutto il braccio, 1, 2, 3 prova, sto parlando uguale, vedo che sale, no, già sta andando, dai. Poi il baracchino è parzialmente strozzato, perché questo è omologato, capito? Non è aperta la modulazione tutta, non gliel'ho aperto tutto, non, se no è inutile, decade, capito? Guarda adesso! Sei basso, ma vedo mio, già, è strano, ti sei il bip è basso, la radio è bassa. Non so cosa mi si è preso con l'apparecchio adesso, uscivi subito forte, ma veramente forte, adesso ti sei assemblato. È strano che si sia abbassato il bip, è strano, ma il bip passa per il modulatore, Antonè, se no poteva guardare il mic gain, solo che il bip è indipendente dal mic gain. No, il mic gain è un discorso diverso, è totalmente indipendente, quindi il bip parte dal modulatore, e se si è abbassato il bip anche l'audio, mi sta un bel strano. Guarda adesso. Il bip è normale, però la modulazione è come lontana già, ma la batteria è carica. Questa è la batteria nuova, adesso sei tu. Ok, dai. Probabilmente perché lo stavo tenendo troppo lontano. Va bene, dai. C'è lei. Adesso va bene. Ma ha parlato in due. Troppo eco, troppo già. Ti sovrasta. Comunque va bene adesso, ecco, non ti preoccupare. Poi, vabbè, quello che è, non ti preoccupare. Adesso l'ho regolato, guarda a vedere come fa adesso Antonella. Adesso va bene. Capa, dai. Questo qua, Marco, è il Proxel. Ma il DM1000, quel DM1000? Sì, il DM1000, Marco, il DM1000. Eia, naturalmente l'amplificazione si regolava da dentro, giusto? Perché non è troppo forte adesso. Il bello è che aveva una timbrica bella calda, e perché c'ha la voce tipo me, tipo Topo Gigio, era ideale, diciamo, da. Poi, vabbè, mi sono buriato e già lo sai, come finiscono. Marco, guarda se a buscarmi un... In pratica non mi serve la parte di dietro, cioè mi serve solamente la parte di davanti. Aspetta un secondo, se lo dico subito. Sì, mi serve la parte davanti del boxer. Non riesci a trovare da qualcuno che ce l'ha, magari che non se ne